Quando siete entrata ieri, non era come avete creduto, disse Rosamond nello stesso tono di voce. Dorothea fece un movimento di sorpresa e attenzione. Si aspettava che Rosamond volesse discolparsi. Mi stava dicendo che amava un'altra donna, perché sapessi che non avrebbe mai potuto amare me, disse Rosamond, parlando sempre più affrettatamente mentre procedeva. E adesso penso che egli mi odi, perché ieri lo avete frainteso. Dice che è per colpa mia che penserete male di lui, penserete che è falso. Ma non porterò questa colpa. Non ha mai nutrito alcun affetto per me, lo so, ha sempre pensato a me con noncuranza. Ieri ha detto che per lui non esisteva nessun'altra donna tranne voi. La colpa di quello che è successo è interamente mia. Lui ha detto che non avrebbe mai potuto spiegarvelo per causa mia. Ha detto che non avreste mai più potuto giudicarlo bene. Ma ora ve l'ho detto ed egli non può più rimproverarmi. Rosamond aveva scoperto la propria anima spinta da impulsi a lei prima ignoti. Aveva cominciato la confessione sotto l'influsso dominante dell'emozione di Dorothea e mentre procedeva si era accorta che stava respingendo i rimproveri di Will, che erano ancora come la ferita di un coltello dentro di lei. Il mutamento nei sentimenti di Dorothea era troppo forte per poter essere chiamato gioia. Era un tumulto in cui il terribile sforzo della notte del mattino le procurava un dolore persistente. Poteva solo avvertire che questa sarebbe divenuta gioia quando avrebbe riacquistato la capacità di provarla. Ciò di cui fu immediatamente consapevole fu un'immensa comprensione senza freno. Ora si preoccupò per Rosamond senza sforzo e rispose sinceramente alle sue ultime parole. No, non può più rimproverarvi. Per la sua consueta tendenza a sopravvalutare il lato buono degli altri, sentì il proprio cuore traboccare tutto per Rosamond, per il generoso sforzo che l'aveva redenta dalla sofferenza, non tenendo conto del fatto che lo sforzo era una conseguenza della propria energia. Dopo essere restate zitte per un po', disse: Non mi dispiace che io sia venuta questa mattina. No, siete stata molto buona con me, disse Rosamond. Non credevo che sareste stata così buona. Ero molto infelice. Non che io ora sia felice. Tutto è così triste. Ma verranno giorni migliori. Vostro marito sarà apprezzato nella misura giusta e ha bisogno del vostro conforto. Vi ama più di tutto. La perdita peggiore sarebbe perdere quell'amore e voi non l'avete perduto, disse Dorothea. Tentò di scacciare il pensiero troppo opprimente del proprio sollievo per timore di non riuscire a cogliere un qualche segno che l'affetto di Rosamond era tornato ad anelare per il marito. Tertius allora non si è lagnato di me? Chiese Rosamond, comprendendo a questo punto che Lydgate avrebbe potuto dire qualsiasi cosa a Mrs. Chasuble e che questa era certamente diversa da altre donne. Forse nella domanda c'era una debole punta di gelosia. Un sorriso cominciò a comparire sul volto di Dorothea mentre diceva: No, davvero. Come avete potuto immaginarlo? Ma a questo punto la porta si aprì e Lydgate entrò. Sono tornato in qualità di dottore, disse. Dopo essere uscito sono stato ossessionato da due volti pallidi. Mrs. Chasuble sembrava altrettanto bisognosa di cure quanto te, Rosie, e ho pensato di non avere fatto il mio dovere nel lasciarvi assieme. Così, dopo essere stato da Coleman, sono rincasato. Ho notato che eravate a piedi, Mrs. Chasuble, e il cielo è cambiato. Ho l'impressione che pioverà. Posso mandare qualcuno con l'ordine di far venire la vostra carrozza? Oh no, sono forte. Ho bisogno della passeggiata, disse Dorothea alzandosi, piena di animazione in volto. Mrs. Lydgate e io abbiamo chiacchierato molto ed è tempo che io vada. Mi hanno sempre accusata di essere esagerata e di parlare troppo. Porse la mano a Rosamond e si diedero un sincero, tranquillo commiato, senza baci o altre esibizioni di effusione. Fra di loro erano intercorsi sentimenti troppo seri perché ne usassero i segni con superficialità. Mentre Lydgate l'accompagnava alla porta, lei non disse nulla di Rosamond, ma gli parlò di Mr. Fairbrother e degli altri amici che avevano ascoltato con fiducia il suo racconto. Quando egli tornò da Rosamond, questa si era buttata sul divano con una spossatezza rassegnata. Ebbene, Rosie, disse, stando ritto accanto a lei e toccandole i capelli, cosa pensi di Mrs. Casebo ora che sei stata tanto assieme a lei? Penso che debba essere migliore di qualsiasi altra persona, disse Rosamond. Ed è molto bella. Se vai da lei a parlarle così spesso, sarai più che mai scontento di me. Lydgate rise di quel così spesso. Ma Teresa è un po' meno scontenta di me? Penso di sì, disse Rosamond alzando lo sguardo verso la sua faccia. Che occhi pesanti hai, Terzio, se ti prego, buttati i capelli all'indietro. Egli sollevò la grande mano bianca per obbedirle e si sentì grato per questo modesto segno di interesse nei propri confronti. La fantasia vagabonda della povera Rosamond aveva fatto il ritorno terribilmente punita, abbastanza ammansita per rannicchiarsi sotto il vecchio riparo disprezzato. E il riparo era ancora lì. Lydgate aveva accettato il suo angusto destino con triste rassegnazione. Aveva scelto questa fragile creatura e aveva raccolto nelle proprie braccia il peso della sua vita. Doveva camminare come meglio poteva, trasportando con compassione quel peso. Capitolo 82. È noto che gli esuli si nutrono molto di speranze ed è improbabile che restino in esilio a meno che non vi siano costretti. Quando Will Ladislaw si esiliò da Middlemarch, non aveva posto alcun ostacolo più forte al proprio ritorno della propria risolutezza, che non era per nulla una barriera di ferro, ma semplicemente uno stato d'animo soggetto a sciogliersi in un minuetto con altri stati d'animo e a trovarsi, a inchinarsi, a sorridere e a lasciare il posto con educata facilità. Col passare dei mesi gli era parso sempre più difficile dire perché non dovesse fare una scappata a Middlemarch, unicamente allo scopo di sentire qualcosa su Dorotea. E se nel corso di una tale visita frettolosa, per una qualche strana coincidenza, il caso avesse voluto che si imbattesse in lei, non c'era nessun motivo per cui si dovesse vergognare di aver intrapreso un viaggio innocente che prima aveva supposto di non fare. Dato che era disperatamente separato da lei, egli poteva certamente avventurarsi nelle vicinanze di casa sua, e quanto ai sospettosi parenti che la tenevano d'occhio come dei draghi, la loro opinione sembrava sempre meno importante col passare del tempo e il cambiamento d'aria. E poi si era presentato un motivo del tutto estraneo a Dorotea, il quale sembrava rendere un viaggio a Middlemarch una sorta di dovere filantropico. Will aveva dedicato un'attenzione disinteressata a un insediamento progettato su nuove basi nel Far West e il bisogno di fondi allo scopo di realizzare un buon disegno lo aveva portato a chiedersi se non era il caso di sfruttare lodevolmente dei diritti che egli vantava su Balstrò, insistere sull'impiego del denaro che era stato offerto a lui come mezzo per realizzare un progetto che aveva la probabilità di rivelarsi ampiamente utile. La questione sembrava assai ambigua a Will e la sua repulsione ad allacciare di nuovo un qualsiasi rapporto col banchiere forse l'avrebbe indotto a liquidarla rapidamente se non si fosse presentata alla sua fantasia la probabilità che avrebbe potuto valutare con maggiore sicurezza le cose con una visita a Middlemarch. Questo fu lo scopo che Will si rappresentò come motivo per venire in città. Aveva inteso confidarsi con Lydgate e discutere con lui la questione finanziaria e si era proposto di divertirsi nelle poche serate del suo soggiorno ascoltando tanta musica e celiando con la bella Rosamond, senza ignorare i suoi amici alla canonica di Lowick. Se la canonica era vicina al palazzo, non era colpa sua. Aveva trascurato i Fairbrother prima della partenza perché si opponeva con orgoglio alla possibile accusa di cercare per via traversa di avere dei colloqui con Dorotea. Ma la fame ci addomestica e Will era divenuto assai bramoso della visione di una certa forma e del suono di una certa voce. Nulla era riuscito a sostituirle, né l'opera, né la conversazione di zelanti uomini politici, né l'accoglienza lusinghiera in oscuri circoli al suo nuovo stile in articoli di fondo. Così era venuto in città, con la fiducia di ritrovare intatto il suo piccolo mondo familiare, temendo in effetti che la sua visita non gli avrebbe recato sorprese. Ma aveva trovato quel mondo monotono in uno stato terribilmente dinamico, in cui persino la celia e il lirismo erano divenuti esplosivi, e il primo giorno di questa visita era divenuto il momento più critico della sua vita. Il mattino successivo si sentì talmente turbato dall'incubo delle conseguenze, temeva tanto le conclusioni immediate che lo attendevano, che al vedere, mentre stava facendo colazione, l'arrivo della diligenza di Riverstone, uscì in fretta e furia e prese posto in essa per poter trovare sollievo, almeno per una giornata, dalla necessità di fare o dire alcunché a Middlemarch. Will Ladislaw si trovava in una di quelle crisi intricate che nell'esperienza sono più comuni di quanto si potrebbe immaginare, stando alla superficiale perentorietà del giudizio degli uomini. Aveva trovato Lydgate, verso i quali nutriva il rispetto più sincero, in circostanze che esigevano la sua più completa e franca simpatia, e il motivo per cui, a dispetto di quella pretesa, sarebbe stato meglio per Will evitare ogni ulteriore confidenza o addirittura contatto con Lydgate. Era precisamente del tipo da far apparire una simile condotta impossibile. Per una persona dal carattere suscettibile come Will, privo di qualsiasi zona neutra di indifferenza nella propria natura, pronto a trasformare tutto ciò che gli accadeva nei conflitti di un dramma appassionato, la rivelazione che Rosamond avesse fatto dipendere in qualche modo la propria felicità da lui rappresentava una difficoltà che il suo scoppio d'ira verso di lei aveva ingigantito a dismisura. Egli odiava la propria crudeltà, eppure temeva dimostrare fino in fondo la propria compassione. Doveva tornare da lei, non poteva mettere repentinamente termine a questa amicizia, e la sua infelicità era una forza che egli temeva. E contemporaneamente non pregustava più alcuna gioia nella vita che lo aspettava, come gli sarebbe successo se le membra gli fossero state mozzate ed egli stesse ricominciando tutto da capo sulle grucce. Durante la notte aveva riflettuto se non fosse dovuto salire sulla diligenza, non per Riverstone, ma per Londra, lasciando a Lydgate un biglietto in cui gli avrebbe dato una spiegazione di ripiego della propria partenza. Ma a trattenerlo da questa partenza affrettata c'erano forti nodi: la rovina della propria felicità al pensiero di Dorotea, la distruzione di quella speranza preminente che sopravviveva a dispetto della riconosciuta necessità alla rinuncia. Erano un tormento troppo recente perché egli vi si potesse rassegnare e se ne andasse via immediatamente, tracciando una distanza che significava anche disperazione. Talché egli non fece nulla di più deciso che prendere la diligenza di Riverstone. Fece ritorno con essa mentre c'era ancora luce, dopo aver deciso che quella sera doveva andare da Lydgate. Il Rubicone, lo sappiamo, era un corso d'acqua assai insignificante a vedersi. Il suo significato stava completamente in certe condizioni invisibili. Will si sentiva come se fosse obbligato ad attraversare il suo fossato di confine, e ciò che vedeva al di là di esso non era un impero, ma una soggezione scontenta. Ma talvolta ci è dato, anche nella vita quotidiana, di essere testimoni dell'influenza detentrice di una natura nobile, dell'efficacia divina della salvezza che si può trovare in un atto altruista di amicizia. Se Dorotea, dopo la sua notte passata nell'angoscia, non avesse intrapreso quella passeggiata per Rosamond, beh, forse sarebbe stata una donna che si sarebbe guadagnata una reputazione migliore quanto a discrezione. Ma certo la situazione non sarebbe stata la stessa per quei tre che si trovavano attorno a un unico focolare in casa di Lydgate alle 7:30 di quella sera. Rosamond era stata preparata alla visita di Will e lo accolse con una freddezza languida che Lydgate attribuì al suo esaurimento nervoso, di cui non poteva supporre che avesse alcun rapporto con Will. E quando le rimase seduta in silenzio, pecandosi sopra un certo lavoro, egli con aria innocente chiese scusa per lei in una maniera indiretta, pregandola di appoggiarsi all'indietro e di riposare. Will si sentì uno straccio, obbligato a fingersi un amico che incontrava e salutava Rosamond per la prima volta, mentre era tutto impegnato a pensare a cosa aveva provato lei dopo quella scenata del giorno precedente, che sembrava ancora avvolgerle inesorabilmente come la dolorosa visione di una doppia pazzia. Il caso volle che nulla richiamasse Lydgate fuori della stanza. Ma quando Rosamond versò il tè e Will si avvicinò per prenderlo, lei gli posò sul piattino un minuscolo pezzo di carta ripiegata. Egli lo vide e se ne impadronì rapido, ma mentre tornava alla propria locanda non provò alcun desiderio di aprire il biglietto. Ciò che Rosamond gli aveva scritto probabilmente avrebbe intensificato la penosa impressione della serata. Pure lo aprì e lo lesse accanto alla candela del comodino. C'erano solo queste poche parole nella sua scorrevole calligrafia. L'ho detto a Mrs. Casaubon. Non è vittima di alcun errore su di voi. Gliel'ho detto perché è venuta a trovarmi ed è stata molto gentile. Adesso non avrete nulla da rimproverarmi. Non avrò cambiato nulla per voi. L'effetto di queste parole non fu proprio tutto di felicità. Mentre Will si soffermava su di esse con la fantasia agitata, sentì le guance e le orecchie bruciargli al pensiero di ciò che era intercorso fra Dorothea e Rosamond, al dubbio di quanto Dorothea poteva ancora sentire ferita la propria dignità nel vedersi offrire una spiegazione della sua condotta. Nella sua mente poteva ancora restare un ricordo mutato di lui, che cambiava le cose irrimediabilmente, una spaccatura durevole. Con attiva immaginazione, egli si ridusse in uno stato di dubbio poco più sereno di quello di colui che è sfuggito al naufragio di notte e si trova su un terreno sconosciuto nell'oscurità. Fino a quel disgraziato giorno prima, tranne il momento di irritazione, molto tempo prima, nella stessa stanza e alla presenza delle stesse persone, tutto ciò che aveva immaginato, tutto ciò che avevano pensato l'uno dell'altra, era avvenuto in un mondo separato, dove il sole cadeva sui gigli alti e bianchi, dove nessuna malvagità stava in agguato e nessun'altra anima entrava. Ma ora, Dorothea, gli sarebbe di nuovo andata incontro in quel mondo? Capitolo 83. Il secondo mattino dopo che aveva fatto visita a Rosamond, Dorothea aveva dormito profondamente per 2 notti e non solo aveva perso ogni traccia di affaticamento, ma si sentiva come se avesse una gran quantità di forza in eccesso, vale a dire più forza di quanto riuscisse a concentrarne in qualsiasi occupazione. Il giorno precedente aveva compiuto lunghe passeggiate fuori del parco e aveva fatto visita 2 volte alla canonica, ma mai in vita sua disse ad alcuno il motivo per cui aveva trascorso il proprio tempo in quel modo sterile. E quella mattina era piuttosto adirata con se stessa per la propria irrequietezza infantile. Quel giorno lo doveva trascorrere in maniera del tutto diversa. Cosa c'era da fare al villaggio? Oh, Dio mio, niente! Ognuno stava bene e aveva la flanella. Non era morto il maiale di nessuno ed era sabato mattina, quando in ogni casa si strofinavano pavimenti e soglie e quando era inutile andare alla scuola. Ma c'erano vari argomenti che Dorothea stava cercando di chiarire e decise di dedicarsi energicamente al più serio di tutti. Si sedette nella biblioteca di fronte al suo mucchietto personale di libri di economia politica e di argomenti affini, dai quali cercava di trarre suggerimenti sul modo migliore di spendere il denaro, così da non danneggiare il proprio prossimo o, il che equivale alla stessa cosa, fargli quanto più bene si può. Ecco un argomento importante che se avesse soltanto potuto impadronirsene l'avrebbe certamente tenuto la mente occupata. Purtroppo il pensiero si allontanò dall'argomento per un'ora intera e alla fine si trovò a leggere delle frasi da capo con molte cose presenti alla sua coscienza, ma con nulla che fosse contenuto nel testo. Lo sforzo era inutile. Doveva ordinare la carrozza e recarsi a Tipton? No, per varie ragioni, preferì restarsene a Lowick. Ma la sua mente vagabonda doveva venire ricondotta all'ordine. C'era un'arte dell'autodisciplina e fece più volte il giro della biblioteca scura, almanaccando con che genere di manovra potesse arrestare le proprie fantasticherie. Forse un semplice lavoro era il mezzo migliore, qualcosa che doveva perseguire con ostinazione. Non c'era la geografia dell'Asia Minore, in cui la sua trascuratezza era stata spesso rimproverata da Mr. Chesebo. Andò allo stipo delle carte geografiche e ne srotolò una. Quella mattina poteva finalmente accertarsi che la Paflagonia non si trovava sulla costa del Levante e individuare con precisione la propria ignoranza sui Calibi che vivono sulle rive del Ponto Eusino. Una carta geografica era una bella cosa da studiare quando si era inclini a pensare a qualcos'altro, poiché era composta di nomi che si sarebbero trasformati in una cantilena se si li ripassava. Dorothea si mise seriamente al lavoro, piegandosi molto d'appresso alla sua carta e pronunciando i nomi in tono udibile e sommesso, che spesso diventava una cantilena. Dopo la sua intensa esperienza, aveva un divertente aspetto di ragazza. Annuiva col capo e teneva conto dei nomi sulla punta delle dita, mentre increspava un po' il labbro e di quando in quando si interrompeva per alzare le mani al volto ed esclamare: «Dio mio, Dio mio!» Questo esercizio non aveva alcun motivo di terminare più di quanto l'avesse un giro di giostra, ma alla fine fu interrotto dall'aprirsi della porta e dall'annuncio che c'era Miss Noble. La vecchia damina, il cui cappellino raggiungeva a malapena la spalla di Dorothea, fu accolta calorosamente, ma mentre le veniva stretta la mano, emise molti dei suoi rumori da castoro, come se dovesse dire qualcosa di difficile. «Sedetevi, vi prego», disse Dorothea, spingendo avanti una poltrona. «C'è bisogno di me per qualcosa?» Sarò molto lieta se potrò fare qualsiasi cosa. Non mi tratterrò, disse Miss Noble, infilando la mano nel suo cestino e reggendo nervosamente qualche oggetto che c'era dentro. Ho lasciato in chiesa un amico. Tornò ai suoi rumori inarticolati e senza accorgersene tirò fuori l'oggetto con cui stava giocherellando. Era la scatoletta di tartaruga per le pastiglie e Dorothea sentì il rossore montarle alle guance. Mister Ladislav, proseguì la donnina timida, teme di avervi offeso e mi ha pregato di chiedervi se siete disposta a vederlo per alcuni minuti. Dorothea non rispose immediatamente. Le passò per il capo che non poteva riceverlo in quella biblioteca dove sembrava permanere la proibizione del marito. Guardò verso la finestra. Poteva uscire e incontrarlo nel giardino? Il cielo era gravido di pioggia e gli alberi avevano cominciato a rabbrividire come per il sopraggiungere di un temporale. Per di più, lei era riluttante ad uscire per andargli incontro. Vi prego, ricevetelo, Mrs. Casaubon, disse Miss Noble in tono patetico, altrimenti dovrò tornare indietro e dirgli di no. E questo lo ferirà. Sì, lo riceverò, disse Dorothea. Vi prego, andate a dirgli di venire. Cos'altro c'era da fare? Non c'era nulla a cui lei anelasse per il momento, tranne vedere Will. La possibilità di vederlo si era frapposta con insistenza fra lei e ogni altro oggetto, eppure lei c'era una palpitante eccitazione simile a un timore, la sensazione che stava facendo qualcosa di coraggiosamente provocatorio per amore di lui. Quando la minuscola damina se ne fu andata a passo svelto a portare a termine la sua missione, Dorothea restò in mezzo alla biblioteca con le mani inerti e intrecciate davanti a sé, senza fare alcun tentativo di assumere un atteggiamento di dignitosa indifferenza. Proprio allora ciò di cui era meno consapevole era il proprio corpo. Pensava a ciò che probabilmente passava per la mente di Will e ai sentimenti ostili che altri avevano nutrito nei suoi confronti. Come poteva alcun dovere obbligarla alla crudeltà? L'opposizione al biasimo ingiusto si era mescolato in lei a ciò che aveva sentito per lui fin dal primo momento, e ora il contraccolpo del suo cuore dopo l'angoscia, la resistenza era più forte che mai. Se lo amo troppo, è perché è stato trattato così male. Dentro di lei c'era una voce che diceva questo a qualche astante immaginario nella biblioteca, allorché la porta si aprì e lei si vide Will davanti. Non si mosse ed egli le andò incontro con un volto più dubbioso e timido di quanto Dorothea avesse mai visto prima. Era in uno stato di incertezza che gli faceva temere che un qualche suo sguardo o parola lo condannassero a una nuova distanza da lei, e Dorothea aveva paura dei propri sentimenti. Le sembrava quasi di essere presa da un incantesimo che la teneva immobile e le impediva di disgiungere le mani, mentre un qualche intenso, serio anelito era imprigionato nei suoi occhi. Notando che non gli tendeva la mano, come di consueto, Will si fermò a un metro da lei e disse imbarazzato: «Vi sono così grato per avermi ricevuto». Volevo vedervi, disse Dorothea, che non aveva altre parole a disposizione. Non le passò per il capo di sedersi e Will non interpretò favorevolmente questo modo regale di riceverlo, ma passò a dire ciò che aveva deciso. Temo che mi giudicherete stupido e forse penserete che ho fatto male a ritornare così presto. Sono stato punito per la mia impazienza. Voi sapete, adesso lo sanno tutti, una storia penosa sulla mia parentela. Io ne ero a conoscenza prima di partire e mi ero sempre ripromesso di parlarvene se mai ci fossimo incontrati di nuovo. Dorothea fece un leggero movimento e districò le mani per ripiegarle immediatamente l'una sopra l'altra. Ma ora la faccenda è diventata materia di pettegolezzo, proseguì Will. Desideravo che sapeste che qualcosa in relazione ad essa, qualcosa accaduto prima che io partissi, ha contribuito a farmi tornare qui. Perlomeno pensavo che ciò avrebbe scusato la mia venuta. Era l'idea di indurre Balstrow a impiegare un po' di denaro per uno scopo sociale, un po' di denaro che egli aveva intenzione di dare a me. Forse va alquanto ad onore di Balstrow il fatto che a quattro occhi mi abbia offerto un indennizzo per un vecchio torto. Si è offerto di darmi una buona rendita per riparare, ma suppongo che siate a conoscenza di questa storia spiacevole. Will guardò Dorothea con aria dubbiosa, ma il suo atteggiamento stava assumendo un po' del coraggio spavaldo con cui pensava sempre a questo episodio del proprio destino. Aggiunse: «Sapete che deve essermi penoso al massimo grado?» «Sì, lo so», si affrettò a dire Dorothea. «Ho preferito non accettare una rendita da una simile persona. Ero certo che non avreste pensato bene di me se lo avessi fatto, disse Will. Perché avrebbe dovuto preoccuparsi di dire una cosa di quel genere? Ora. Lei sapeva che egli aveva dichiarato il proprio amore per lei. Ho pensato che, ciononostante, egli si interruppe. Avete agito come mi sarei aspettata che agiste, disse Dorotea, mentre il volto le si illuminava e il capo le si faceva un po' più diritto sul suo magnifico stelo. Non credevo che avreste permesso ad alcuna circostanza riguardante la mia nascita di disporvi male nei miei confronti, anche se certo l'avrebbe fatto in altri, disse Will scuotendo il capo all'indietro alla maniera di un tempo e guardandola negli occhi con una seria aria interrogativa. Se questa fosse una nuova sofferenza, sarebbe un nuovo motivo perché io vi restassi attaccata, disse Dorotea piena di fervore. Nulla avrebbe potuto mutarmi, tranne. Il cuore le traboccava. Ed era difficile proseguire. Si impose un grande sforzo per dire con voce sommessa e tremula, tranne il pensiero che foste diverso, non così onesto come vi avevo creduto. Potete star certa di credermi migliore di quello che sono sotto tutti i punti di vista, tranne uno, disse Will, dando sfogo al proprio sentimento in risposta a quello di lei. Voglio dire, nella mia fedeltà verso di voi. Quando ho creduto che dubitaste di quella, non mi è importato più nulla di ciò che mi è rimasto. Ho creduto che per me tutto fosse finito e che non ci fosse nulla da tentare, solo cose da sopportare. Non dubito più di voi, disse Dorotea allungando la mano. Un vago timore per lui spingeva il suo affetto inesprimibile. Egli prese la mano e la sollevò alle labbra con qualcosa di simile a un singhiozzo. Ma restò col cappello e i guanti nell'altra mano e avrebbe potuto andar bene per il ritratto di un monarchico. Tuttavia, era difficile lasciare la mano e Dorotea, ritrattale in preda a una confusione che la addolorava, volse lo sguardo altrove e si allontanò. Guardate come si sono rabbuiate le nubi e come sono scossi gli alberi, disse avviandosi verso la finestra, eppure parlando e muovendosi solo con la sensazione confusa di ciò che stava facendo. Will la seguì a una certa distanza e si appoggiò contro l'alto schienale di una poltrona di pelle su cui ora si azzardò a posare cappello e guanti e a liberarsi dall'intollerabile impaccio delle cerimonie a cui era stato condannato per la prima volta in presenza di Dorotea. Bisogna confessare che si sentì assai felice in quel momento, appoggiato alla poltrona. Ora non aveva tanta paura di qualsiasi cosa lei potesse pensare. Rimasero muti, senza guardarsi. Ma ad osservare i sempreverdi sballottati che mostravano la pallida pagina inferiore delle foglie contro il cielo che si rabbuiava. Will non gioì mai tanto della prospettiva di un temporale. Lo esentava dalla necessità di andarsene. Foglie e ramoscelli venivano scagliati qua e là e il tuono si avvicinava. La luce era sempre più cupa. Ma scoppiò un fulmine che li fece sobbalzare, guardarsi a vicenda e poi sorridere. Dorotea cominciò a dire ciò a cui era andata pensando. Avete sbagliato a dire che non avreste avuto nulla che valesse la pena di tentare. Se avessimo perduto il nostro bene migliore, resterebbe il bene dell'altra gente, e per quello vale la pena di tentare. Alcuni possono trovare la felicità. Questo mi è parso di capirlo più chiaramente che mai quando mi sono sentita più abbattuta. Non riesco a pensare a come avrei potuto sopportare il tormento se non fosse giunto quel sentimento a rendermi forte. Voi non avete mai provato il genere di disperazione che ho provato io, disse Will, la disperazione di sapere che dovevate disprezzarmi. Ma io mi sono sentita peggio, è stato peggio pensar male. Dorotea aveva cominciato con impeto, ma si interruppe. Will arrossì. Aveva la sensazione che qualunque cosa lei diceva era espressa tenendo presente una fatalità che li teneva separati. Restò muto per un attimo e poi disse con passione: Possiamo avere almeno il conforto di parlarci senza maschera, poiché io devo andarmene, poiché dovremmo sempre essere divisi. Potete considerarmi uno sull'orlo della tomba. Mentre stava parlando, ci fu la luce vivida di un lampo che illuminò i loro volti, e la luce parve il terrore di un amore senza speranza. Dorotea balzò immediatamente indietro dalla finestra. Will la seguì, afferrandole la mano con un moto spasmodico, e così rimasero, con le mani intrecciate, come due bambine a guardare il temporale, mentre il tuono scoppiava in uno schianto e un frastuono tremendo sopra di loro, e la pioggia cominciava a scrosciare. Poi ognuno volse il viso verso l'alto, col ricordo delle ultime parole dette da lui, e non si lasciarono le mani. Per me non c'è speranza, disse Will. Anche se mi amaste come io amo voi, anche se fossi tutto per voi, è assai probabile che io resti assai povero. A un calcolo prudente non posso contare su nulla tranne che un destino miserabile. È impossibile che possiamo mai appartenere l'una all'altra. Forse è stato egoistico da parte mia aver chiesto di parlarvi. Era a mio proposito sparire nel silenzio, ma non sono stato capace di mettere in atto il mio proposito. Non rammaricatevi, disse Dorotea con la sua voce chiara e dolce. Preferisco partecipare a tutto il tormento della nostra separazione. Le tremarono le labbra, e anche a lui. Non si seppe mai quali furono le labbra che per prime si mossero verso le altre, ma si baciarono tremanti e poi si separarono. La pioggia scrosciava contro i vetri, come se in essa ci fosse uno spirito adirato, e dietro c'era il grande vortice del vento. Era uno di quei momenti in cui sia le persone indaffarate che quelle oziose si fermano con un certo terrore. Dorotea si sedette su ciò che c'era di più vicino, una lunga ottomana bassa in mezzo alla stanza, e con le mani piegate l'una sull'altra in grembo guardò il cupo mondo esterno. Will restò fermo un istante a guardarla, poi si sedette accanto a lei e posò la propria mano sulla sua, che si rivolse verso l'alto per venir stretta. Rimasero seduti così, senza guardarsi, finché la pioggia non si calmò e cominciò a cadere silenziosa. Ognuno era stato pieno di pensieri che non osava cominciare a esprimere. Ma quando la pioggia fu silenziosa, Dorotea si volse a guardare Will. Con un'esclamazione appassionata, come se un qualche strumento di supplizio lo minacciasse, egli scattò in piedi e disse: «È impossibile!» Andò ad appoggiarsi nuovamente allo schienale della poltrona e parve combattere con la propria ira mentre lei lo guardava con aria triste. È irremovibile, è come un assassinio o qualsiasi altro orrore che separa le persone. Sbottò di nuovo. È più intollerabile che la nostra vita sia mutilata da delle ragioni così meschine. No, non dite così. Non è necessario che la vostra vita sia mutilata, disse Dorotea con dolcezza. Sì, deve, disse Will con ira. È crudele da parte vostra parlare in questo modo, come se arrecasse un qualche conforto. Forse voi vedete al di là dell'infelicità che c'è in essa, ma io no. Non è gentile. Significa rifiutare il mio amore per voi come se fosse una sciocchezza. Parlare in quel modo di fronte ai fatti. Non ci sposeremo mai. Un giorno, potrebbe darsi, disse Dorotea con voce tremante. Quando? Disse Will con amarezza. A che serve contare su un qualche mio successo? È assai dubbio se riuscirò mai a fare qualcosa di più che mantenere me stesso onestamente, a meno che non decida di fare il pennivendolo e il pappagallo. Di questo mi rendo conto molto chiaramente. Non potrei propormi a nessuna donna, anche se non avesse nessun lusso a cui rinunciare. Rimasero muti. Il cuore di Dorotea era colmo di qualcosa che voleva dire, e tuttavia le parole erano troppo difficili. Era presa interamente da queste. In quel momento c'era una disputa silenziosa entro di lei ed era difficile non riuscire a dire ciò che voleva. Will stava guardando fuori dalla finestra, adirato. Se l'avesse guardata e non si fosse allontanato dal suo fianco, e pensava che tutto sarebbe stato più facile. Infine gli si voltò, sempre appoggiato alla poltrona, e allungata meccanicamente la mano verso il cappello, disse con una sorta di esasperazione: «Addio. Non posso sopportarlo. Mi si spezzerà il cuore», fece Dorotea, scattando in piedi mentre l'empito della sua giovane passione travolgeva tutti gli ostacoli che l'avevano forzata al silenzio. Le grandi lacrime sgorgarono e caddero in un attimo. «Non mi importa della povertà, odio la mia ricchezza!» Subito Will fu vicino e la cinse con le braccia. Ma lei tirò indietro il capo e tenne dolcemente lontano quello di lui per poter continuare a parlare, i grandi occhi colmi di lacrime fissi nei suoi, mentre diceva con accenti infantili e singhiozzanti: «Potremmo vivere benissimo del mio patrimonio. È troppo, 700 sterline all'anno. Ho bisogno di così poco, nessun abito nuovo e imparerò quanto costa ogni cosa.»